vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. Allora, benvenuti anche questo pomeriggio a This Is Not An Exit. Beh, qualche giorno fa ho assistito a una reunion di quelle che mi piacciono, la reunion degli AFA. Gli AFA erano un gruppo di Correggio, Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, fondato all'inizio degli anni 90. Prima si chiamavano Emma and Dutr. Dico bene, Tavernelli? Assolutamente, ciao, grazie Babe, grazie per l'invito al programma. E Emma and Dutr era appunto la prima band in cui ho militato, diciamo. Beh, non potevo non chiamarti, a parte che ti ho visto da Dio, mi sono divertito un sacco, però eravate per me peculiari di un periodo. Ricordo che This Is Not An Exit, come si chiama così, ma vuol dire digressioni musicali dalla fine del secolo breve, e ci focalizziamo soprattutto sul periodo che va tra l'88 e il 93, e chi meglio di voi? Esattamente, perché gli Emma and Dutr nascono un po' prima di Eduiro, però diciamo che il grosso dei dischi, all'epoca si parla di vinili autoprodotti, sono usciti appunto intorno all'87, 88, 89, poi dopo l'ultimo è del 90, poi nel 93 ci fu la svolta con gli AFA, nel momento in cui così siamo venuti a contatto con Massimo Zambone e Giovanni Ferretti, che stavano proprio in all'inizio degli anni 90 fondando la Dischi del Muno. Il consorzio, produttori... E poi successivamente, esatto, il consorzio. Ma cosa volevo dire essere nel 88-89 in provincia di Reggio Emilia dal punto di vista culturale, insomma, cosa si muoveva, anche sociale, anche perché poi ne parlate abbastanza esplicitamente nelle vostre canzoni. Sì, tieni conto che io poi sono andato avanti, ma se devo essere sincero dovrei tornare proprio ai primissimi anni 80, perché c'è una parte delle Emma and Dutr ancora prima, non discografica, ma che comincia a muoversi in ambito locale già verso l'83, 82, poi altre band prima. Beh, voleva dire comunque vivere, respirare e in un certo modo anche portare avanti quello che era un fermento della provincia, tra Reggio, Modena, la stessa Bologna, beh, naturalmente, ma per quanto riguarda Reggio, un grandissimo fermento musicale, abbiamo citato i CCCP non a caso, ma possiamo citare una marea di locali, anche qui a Correggio, proprio da noi, uno dei primi locali che invece di fare disco o soul o funky, faceva il primo punk, la prima elettronica, i Killing Joke, i Divo, i Talking Heads, i Duff, insomma, poi spostandosi di pochi chilometri una marea di locali, il Rizzo Novellara, il Graffio Modena, il Tarantola Reggio, il Tuvata Carpi, locali alternativi in cui si ritrova un po', diciamo, tutta la gioventù diciamo, più curiosa, e posso anche dirti che questo fermento è dovuto anche al fatto che ci furono le prime radio libere, le prime radio locali che trasmettevano ogni genere di diramazione del rock, del progressive, del jazz, dell'elettronica, e poi anche non dimentichiamo anche la tradizione, quando ancora avevano questo nome nobile, delle feste dell'unità. Sì, che avevano tantissimi ospiti. E in particolare proprio qui a Correggio c'è stata per decenni una festa dell'unità storica che così ci portava sotto casa. Vabbè, i nomi grossi come Dylan, Neil Young, Hip Hop, Lou Reed, eccetera, eccetera, ma ci portava anche spesso anche gruppi di culto come i Sonic Youth, come i Poli Rock, Urban Verbs, come James Addiction, Ramon, Jesus and Mary Chain, insomma, è stato un momento per i ragazzini veramente importante, perché erano per noi tutti input, tutte sollecitazioni a fare musica. Questo è un po' il background, il brodo primordiale in cui siamo nati. Ce ne sono già tanti che ridono e sorridono Ma la differenza vera e propria, se c'era, tra la provincia di Reggio Emilia, di Modena, insomma, quelle limitrofe, e il resto d'Italia, l'avvertivi? Era molto, anche nei vostri testi, parlavate particolare, ma in realtà era una situazione che magari altre province in Italia avevano? Ma secondo me la particolarità nostra, in primis, ma penso in diverse band della provincia di Reggio, è stata quella di portare a casa le avanguardie, nel senso che, insomma, non dimentichiamo che Tondelli, i CCP stessi, che erano spesso a Correggio, al nostro locale dove si ballava, io stesso che ho fatto il Dams a Bologna, insomma, c'è questa tensione tra la grande città e la provincia, quindi il portare a casa le avanguardie, nei miei studi, il Dada, il surrealismo, la pop art, tutte le avanguardie artistiche del Novecento. Però la cosa peculiare di Correggio, di questa provincia reggiana, scuola CCCP, Dischi del Mulo, Usmamò, gli AFA, oggi potremmo dire gli Offlag, insomma, tanto per rimanere in una sorta di linea, è stata quella di sempre filtrare e rendere proprio tutto quello che veniva da fuori, quindi di renderlo molto locale anche, di renderlo personale, quindi proprio per non essere provinciali, noi che venivamo dalla provincia, se trattavamo le avanguardie le volevamo trattare in un modo naif, in un modo ruspante, in un modo popular, no? Perché ci sembrava veramente provinciali il rifare le mode delle grandi metropoli pedissequamente, invece a noi ci piaceva reinterpretare, non ci piacevano le musiche il rock americano, non ci piacevano le musiche dei contadini americani, piuttosto citavamo le musiche dei contadini delle nostre frazioni, insomma. Oppure, se dovevo citare i Sonic Youth, se dovevo citare Nick Cave, non lo facevo uguale, non mi mettevo lì a fare i Larsen e le dissonanze dei Sonic Youth, ma le facevo applicate al liscio, al folk locale, alla polka, e portando la distorsione e le dissonanze dentro alla musica contadina, alla musica delle piazze, alla musica delle aie. Questa era la particolarità un po', ma forse anche emiliana, nel senso di dare un taglio alle avanguardie, un taglio però localistico, se così si può dire. We'll be right back. avanguardie che poi magari in quegli anni nel resto d'Europa stavano decadendo, forse anche in Italia, assieme anche ai movimenti politici. Poi tu hai fatto il Dams a Bologna negli anni 80, mi dicevi. Parlare degli anni 80. Sì, negli anni 80, ma magari erano fenomeni che forse stavano andando, in, come dire, lentamente, le avanguardie artistiche stavano finendo comunque storicamente, poi qualcos'altro stava nascendo. Beh, guarda, allora, se devo vederla con una visuale molto più lontana, secondo me non è proprio stato così. Cioè sì, c'è questa idea degli anni 80 come l'inizio del... dell'edonismo, della superficialità, della perdita di valori, di ideali, insomma quel lungo percorso che ci ha portato poi al berlusconismo. Ma se devo essere sincero, però, io che li ho vissuti pienamente gli anni 80, devo dire che c'erano ancora degli anticorpi per in giro, perché quando si parla di tribù alternative che si ritrovano nei locali, non erano nicchie, non erano piccoli numeri, erano veramente tante persone, soprattutto facevano... non erano ritrovi elitari, ma erano luoghi veramente frequentatissimi che si contaminavano anche con gli altri ambiti, cioè non c'era la paura di chiudersi come oggi in piccole parrocchie, in piccoli enclave, no, qui proprio ci si mescolava, nel senso che sapevamo di essere diversi, di essere anche in un certo modo scioccanti, però noi portavamo queste cose in piazza, le portavamo nelle piazze di paese, le portavamo nelle feste di paese, non avevamo paura di portare il rumore nelle sagre paesane. E poi sì, anche il discorso degli anni 80 è un po' più complesso, perché trovo per esempio molto più personalizzati gli anni 90, perché negli anni 80 c'era ancora un'estetica riconoscibile comunque, che poi piacesse o meno. Gli anni 90 invece li vedo come proprio un riflusso, un riciclo di cose già sentite, dal grunge in poi, nel senso che il grunge è un riciclo di musiche degli anni 70, Led Zeppelin, il riff hard rock, eccetera, eccetera. Gli anni 80 secondo me sono diversi, c'era ancora tanta... ancora energia nonostante tutto, oppure anticorpi, resistenza e anche ribellione a un sistema che si stava massificando. Quindi li vedo in modo un po' più benevolo, un po' più benevoli questi, quegli anni, quei famosi anni 80, insomma, perché c'era ancora, poi posso dire anche che si poi citato il dance, io per esempio che l'ho frequentato negli anni 80, nonostante tutto respirava ancora quell'energia, quello spirito dissacrante che proveniva dagli anni 70, dal 77 bolognese, quindi tutta la scena dell'Italian Record, dei Gaz Nevada, degli Schianti, del Confusional Quarter, di Frigidaire, del fumetto e del teatro d'avanguardia, di Tondelli, insomma si sentiva ancora nell'aria anche a Bologna quel tipo di energia di sperimentazione. E in un certo modo io ho avuto la fortuna ancora di poterla respirare anche negli anni 80, quindi sì, forse sono l'inizio, ma io per esempio vedo molto, col senno di cui vedo molto più problematici gli anni 90 che gli anni 80. Siamo turbati, siamo impazzati, siamo... infatti noi arriviamo proprio in quel periodo, cioè il momento di taglio deve essere stato a cavallo tra gli 80 e i 90, per quello che poi, insomma, il periodo degli Amandotra, appunto. Tieni conto che poi i fenomeni, per esempio, degli anni 90 più interessanti non sono avvenuti nel rock, secondo me, sono avvenuti, sì, il rock c'è stato il, diciamo, lo sprazzo crossover, forse l'ultima alito di vita, insomma, il primo crossover, la contaminazione tra il rock, il rap, il metal, il punk, eccetera, eccetera. Per esempio gli ultimi sprazzi interessanti negli anni 90 sono stati l'hip hop, sicuramente, quindi dalla Def Jam in poi, ma la Def Jam ha radici già sul fine degli anni 80, quindi vari Public Enemy, eccetera, eccetera. E devo dire che gli anni 90 invece sono stati più interessanti per la scena elettronica, per la club culture, per diciamo l'approdo del DJ quale figura di produttore di musica, tutti i sottogeneri dell'elettronica, dall'ambient al trip hop, alla jungle, al drum and bass. Quello è stato forse la cosa interessante degli anni 90, non è stato il rock di sicuro. E gli Amandotra, proprio per questo, si cibavano un po' di tutto quello che approdava. Tu puoi sentire nei nostri dischi, anche se in modo, diciamo, molto naif e rurale, puoi sentire delle influenze che vanno dall'elettronica all'hip hop, al folk, al rumorismo, al dadaismo, a tutto quello che sentivamo noi cercavamo di buttarlo dentro, insomma, era proprio... noi eravamo come delle spugne, dei ragazzini che facevano radio, ascoltavano concerti e portavano tutto a casa, riportavano tutto a casa contaminandolo con la campagna, con i suoni dei trattori, con il dialetto, insomma era tutto un discorso tensione tra il colto e il popolare, diciamo. E poi cosa è successo? Per esempio, so che le radio libere a Correggio proprio verso la fine degli anni 80 o cos'era, sì, sono state chiuse. Beh, parliamo, sì, parliamo in verità dei sì, primi anni, no, sì, primi anni 90, insomma, sì, tra primi anni 90, diciamo, hanno chiuso. Beh, lì c'è poi un discorso molto più vasto e largo da fare, che riguarda anche l'aspetto sociale e politico delle nostre zone, della provincia emiliana, nel senso che molte di queste strutture, radio, locali, circoli, erano comunque sostenute, inutile negarlo, dall'allora Partito Comunista o PDS o quello che era successivamente. O dall'ARCI. O dall'ARCI, esatto, sì. È innegabile che c'era un impegno nelle politiche culturali, nelle politiche giovanili, veramente notevole. Poi dopo qui si possono aprire discorsi se era bello o brutto, se era monopolio o non erano monopoli, però non mi interessa questo discorso qua. Mi interessa il fatto che comunque effettivamente c'era un impegno, ma anche economico, sulle politiche giovanili veramente costante, cosa che manca invece oggi. E questo faceva sì che finché, diciamo, la politica ha creduto che investire nella cultura, investire nei giovani, investire nella creatività era un bene, questi locali hanno continuato ad esistere. Nel momento in cui tutto è stato dismesso, il partito ha cercato di alleggerirsi e diventare liquido, come si dice oggi, no? Di delegare e di appaltare ad altri la cultura, l'educazione, le scuole, nel senso che poi cominciamo a entrare nel discorso della, scusatemi, forse anche un po' complesso, dell'esperimento di fusione tra i cattolici e i laici che poi ha portato l'attuale PD, no? Questo ha portato a far sì che tutta, diciamo, quella che era l'apparato culturale, laico dell'ex partito è stato smantellato, venduto, è stato chiuso, come dicevi tu, quindi si sono in un certo modo anche chiusi degli spazi a favore poi di altri tipi di attività, che sono stati magari poi i famigerati disco bar, sono stati le organization delle discoteche, sono stati i PR che entravano negli uffici culturali dei partiti politici. Insomma, c'è stata una mutazione culturale che è tuttora in atto, insomma, una mutazione culturale che ha portato a diciamo una deriva culturale, se così possiamo dire. Potrà fermare. stata anche una concentrazione nelle mani forse di meno persone della produzione culturale, dico anche a livello produttivo. Se prima magari voi lo dicevate prima, vi autoproducevate, e poi magari negli anni si è tutto accorpato. Esistevano negli anni 80 queste catene di distribuzione indipendente, ce n'erano tantissime, dalla Toast alla Wide all'Ira, insomma la Contempo, insomma ce n'erano tante, proprio un vero e proprio circuito che in un certo modo si rifaceva al circuito indipendente inglese, quindi dalla Rastrade alla Cartel, insomma quel circuito di etichette indipendenti che era riuscito a creare un mercato. In Italia era più difficile, però ci si era provato, e devo dire che noi abbiamo comunque in un certo modo abbiamo tratto giovamento da questo circuito, perché siamo riusciti a fare 4 album autoprodotti. Con questi album riuscivamo comunque a suonare in giro, a passare nelle radio, a essere recensiti sulle riviste specializzate, a entrare in circuiti anche più grossi e suonare in tutta Italia, quindi grazie da Resto Wave, On The Rocks, eccetera eccetera. Insomma c'era una curiosità diversa. Poi è vero che piano piano anche le major hanno cominciato ad interessarsi a il cosiddetto, all'epoca si chiamava rock italiano, hanno cominciato a interessarsi, hanno capito che in alcuni casi ci poteva essere qualche possibilità di ritorno economico, si sono create queste etichette. Forse l'ultimo momento di resistenza e di reazione è stato negli anni 90, quello che tu hai citato prima, il consorzio produttori indipendenti, che è stato forse l'ultimo baluardo della musica indipendente italiana, nel senso che era una operazione molto intelligente, perché riusciva a garantire indipendenza artistica ai propri gruppi, quindi tutti noi eravamo gruppi assolutamente liberi artisticamente, cioè trattavamo, noi per esempio avevamo il contatto diretto con Massimo e Giovanni dei CDCP, gestivamo con loro il discorso artistico, poi questo prodotto finito veniva affidato alle mani della, oggi è l'Universo, all'epoca era la Polygram, che si occupava appunto della distribuzione, della promozione, dei cachet. Quindi era un progetto molto molto intelligente, ma penso sia stato l'ultima operazione dignitosa per la musica indipendente italiana. Poi dopo c'è stato il cedimento alle major o la nascita di oggi di etichette indipendenti, che poi in verità sono autoproduzioni di nuovo, insomma, perché non dimentichiamo che sono realtà così piccole oggi le indipendenti, che spesso si risolvono in autoproduzioni. We'll be right back. Beh, adesso cosa hai intenzione di fare? Dopo questa riunione degli AFA, come vedi gli AFA nel 2014? Ma guarda, anzi, ti faccio un'altra domanda più scontata, sì, forse, ma esisterebbero gli AFA nel 2014? No, non esisterebbero assolutamente, è un periodo diverso quello. Adesso sarebbe veramente impossibile. Tieni conto che noi con gli AFA, che non eravamo il gruppo sicuramente più importante del consorzio, prima di noi c'erano i CSI, c'erano gli Uffamoi, Marlene, eccetera, eccetera, però eravamo un gruppo comunque che muoveva cachet, muoveva gente, muoveva date, muoveva, insomma, aveva un suo piccolo, perché aveva un suo piccolo business, aveva un suo piccolo valore. Tieni conto che con gli AFA, dopo gli Eman Dote, che praticamente gli AFA sono stati il proseguimento automatico, eravamo alla stessa formazione, è cambiato solamente il nome e siamo entrati nella scuderia di Massimo Giovanni. Gli AFA sono riusciti negli anni 90 a produrre 4 dischi con una visibilità nazionale, con produzioni di un certo tipo, con riconoscimenti di un certo tipo. Si viaggiava per tutta Italia organizzati con service, furgone, merchandise, fonico e tutto, insomma, situazioni tecniche, logistiche perfette, insomma, c'era tutta un'area diversa, un'attenzione diversa, si poteva andare in televisione, c'erano spazi televisivi ancora a disposizione, nel senso che anche un gruppo non internazionale come noi poteva passare in Rai, poteva passare su Mediaset, poteva passare su TMC2, su Video Music, sulla prima MTV, poteva avere tanti spazi, Radio Rai, il circuito radio popolare, si poteva veramente, c'erano tante possibilità per gli AFA, addirittura si poteva andare ai TG, TG3 nazionale, Rai 1, Rai 2, oggi sarebbe impossibile per gli AFA una cosa del genere, poi soprattutto facendo un discorso come il nostro che era molto complesso, cioè era un lavoro giocato sulla contaminazione totale di genere, sul linguaggio, sui testi, su una ricerca anche lessicale sui testi e anche con passaggi anche radicali, nel senso che poi i primi 2 album degli AFA erano praticamente una mescolanza di, diciamo, forse possono essere quello che è il proseguimento del discorso degli Eman Dote, quindi mescolanza di avanguardie, crossover e folk popolare, padano, liscio, eccetera, cioè Walter, eccetera, eccetera. Ma poi dal 96 in poi abbiamo preso anche noi una svolta più elettronica con 2 album che risentivano del suono degli anni 90, quindi con uso di campionamenti, di loop, eccetera, eccetera. Quindi 2 album come Nomade Psichico e Armonico, proprio imbevuti di quella che era l'elettronica del periodo. Oggi sarebbe impossibile tutto questo, credo, soprattutto sarebbe impossibile poter durare così tanto, perché noi alla fine sono 10 anni quasi di Eman Dote, 10 anni degli AFA, insomma, se voglio essere un po' così, parlare della durata. Oggi sono fenomeni che durano massimo 2 o 3 album, poi subito c'è un ricambio di moda, adesso siamo c'è stato il fenomeno dei cantautori degli anni zero, vedo che già si comincia un attimo a pensare a qualcos'altro, insomma è un riciclo continuo di suoni ed è difficile riuscire a durare così tanto. Dopo miliardi di anni che esiste questo pianeta, quante evoluzioni, quante trasformazioni sono avvenute. La pianura padana era il fondo, l'abisso del mare, ma tanti milioni di anni fa le acque si ritirarono e comparve questa meravigliosa pianura. Dicono che le prime terre che affiorarono al sole sono proprio queste del comune di Correggio. Ma dicono che il primo paese affiorato al sole sia stato Mandrio. lo chiamano mandrio perché grandi mandrie di animali pascolarono in quelle terre. Terre fertili, fertili erano anche gli abitanti di questo paese. Quanti scienziati, inventori e sportivi, ne ricordiamo due di questi personaggi del nostro tempo. Dorando Pietri e Ottorino Ferrari. San Pellegrino, lui corre alle Olimpiadi d'Inghilterra, ma cade a pochi centimetri dal traguardo alla presenza della regina. La regina grida: per mio conto la corsa l'ha vinta questo grande corridore, e chiede ai presenti da che nazione venisse. E comunque a me avete sempre dato l'impressione di non prendervi troppo sul serio e di divertirvi un sacco e di far divertire. Adesso non so se questo passerebbe. Esatto, questo è un altro aspetto importante che io ho sempre cercato di sottolineare, a volte anche essendo un po' frainteso, nel senso che gli Emmang Dotre o gli Apo, i primi Apo, non erano affatto un gruppo demenziale, anzi eravamo molto... c'era molta ricerca dietro, c'era molto pensiero, c'era molto lavoro di testa, c'era molto concetto anche, però a noi piaceva presentarlo però in un modo anche un po' sopra le righe, ironico e soprattutto, come dicevi tu, anche autoironico, nel senso che mi hanno sempre fatto ridere quelli che si immedesimano totalmente in una moda, in una tendenza, senza un attimo riflettere, senza anche riderci sopra. Insomma, io sono stato forse uno dei fighetti più trendisti e trendsetter della mia zona, nel senso che dal primo punk alla new wave, al dark, all'elettronica, al Manchester, al suono di Berlino, al suono di New York, al suono, insomma, ho seguito tutto quello che potevo seguire, perché poi anch'io ho fatto radio per diversi anni, sia qui a Correggio che a Mondo, nella storica Mondo Radio di Scandiano. Per cui io ho seguito tutto, crossover, hip hop, insomma, tutto quello che potevo seguire ho seguito. Però ho sempre cercato di assumere un senso critico nel senso di provare un attimo a considerare il fatto di non essere una macchietta, di non cadere in una maniera, nel senso, sono stato un grande fan di Nick Cave, ma io non avrei mai voluto essere Nick Cave, cioè io volevo, mi piaceva il modo in cui lui interpretava i testi e la musica, mi piaceva, forse capivo la sua sensibilità, ma giammai avrei provato a fare Nick Cave di Correggio. Oppure mi piacevano i Sonic Youth, ma non avrei mai voluto fare un disco alla Sonic Youth. Piuttosto, ecco, prendevo questi elementi e li cacciavo dentro su una base di Walzer, come ti dicevo prima. Cioè, l'autoironia, proprio l'autoironia, il non prendersi sul serio, il gioco anche sulla musica è importante, il giocare sopra, e anche la possibilità di in un certo modo di usare anche il caos e il caso, quindi anche non aver paura di essere contraddittori. Io nel mio percorso musicale ho fatto dischi pesissimi, sperimentali, di rumore, ma a me poi piace anche fare anche delle belle canzoni pop, quindi a me non mi dispiace anche di avere delle cose incongruenti. A volte le persone rimangono spiazzate e mi dicono: ma perché hai fatto quello? Invece dico, no, a me piace tutta la musica, quindi non mi pongo barriere, mi piace la roba più radicale, ma mi piace anche la canzoncina pop, quindi in questo percorso ci sta tutto, insomma, tutto questo, perché non bisogna essere seriosi. Mm-hmm. cattivo, ho bisogno di un bazooka, bisogno di un bazooka. Vorrei essere uno scanner e far scoppiare teste, far scoppiare teste. E non voglio ruffianate, no, non voglio ruffianate. Sono molto insofferente e lo schifo imperversa, la sfiga esiste. Sulla panchina è scritto, sulla panchina è scritto. Sono stato un obiettore, forse sono un pacifista, ma lo stesso mi viene voglia di impugnare il mitra. Sono stato un obiettore, forse sono un pacifista, ma a volte mi viene voglia di impugnare il mitra. Sono stato un obiettore, forse sono un pacifista, ma lo stesso mi viene voglia di impugnare il mitra. Sono stato un obiettore, forse sono un pacifista, ma a volte mi viene voglia di impugnare il mitra. Sono un arbre magic, sono un arbre magic. Sono un piccolo bootsman. E se fossi il punitore, e se fossi un giustiziere, combatterei il male, non sarei qui a cantare. Mai tra fama doriani, in un'altra dimensione, sanno come andrà a finire, come andrà a finire. E gli sporchi vecchioni, e i giovani bavosi, uccisi dai bambini, uccisi dai bambini. Non so bene chi votare, la mia fede personale, ma comunque sono stanco di questa cricca. Non so bene chi votare, la mia fede personale, ma comunque sono stanco di questa cricca. Non so bene chi votare, forte è la delusione, ma comunque sono stanco di questa cricca. Non so bene chi votare, la mia fede personale, ma comunque sono stanco di questa cricca. Sono Don Azzurra, sono un uomo in miniatura, e lo canti sollevante, onorevole occidente, sì, lo canti sollevante, onorevole occidente. Sono Akira Tetsuo, Akira Tetsuo, la sogno le Zaibatsu, la sogno le Yakuza, e ti fotti in un boccone, se ti fotti in un boccone, io ti fotti in un boccone, se ti fotto. E lo rizzo l'occidente, l'occidente decadente, che da sempre confonde violenza intelligenza. Te lo rizzo l'occidente, l'occidente decadente, che da sempre confonde violenza intelligenza. Te lo rizzo l'occidente, l'occidente decadente, che da sempre confonde violenza intelligenza. Te lo rizzo l'occidente, l'occidente decadente, che da sempre confonde violenza intelligenza. Non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, forte è la delusione. Non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare, non so bene chi cagare. Vi ringrazio molto per questa intervista e poi se vi rifarete vivi come AFA, che chi lo sa, fatecelo sapere. Assolutamente. Vi pubblicizzeremo. Grazie mille a Fabrizio Tavernelli, che è stato ospite qui a This Is Not an Exit questo sabato, e a risentirci alle prossime puntate. Ciao Taver. Grazie a te Babe, grazie a tutti per l'ascolto. Ciao. Corrodendo dentro, oh! Acido. dosi di veleni. Sofisticato, sofisticato, il valore del mio mondo è sofisticato. Contaminato, contaminato, il valore del cortile è contaminato. Il tavolo lasciato, polverato in solaio. Il tavolo lasciato, polverato in solaio. Estensione, estensione, testi prova per disarmanti. Utopia, turbabilità, l'agricoltura su campi spaziali. Nuovi attrezzi per raccolti di campi mutanti. Nuovi attrezzi per raccolti di campi mutanti. Nuovi attrezzi per raccolti di campi mutanti. Nuovi attrezzi per raccolti di campi mutanti. Pump up the volume.